Sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il Falco e il Gabbiano, da lunedì a venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Melog, cronache meridiane, di Gianluca Nicoletti. Will, lei è Elizabeth, prendila in braccio se vuoi. Ok. Sì, la tengo. È carina. È deliziosa, vero? Oh, sì, non è dolce. A dire la verità, Chris, sono un po' a disagio con lei. Meglio che te la riprendi. E pensare che poteva essere tua se avessi messo la testa a posto. Ma pensa un po', sì. Eh sì, fra i tanti modelli di possibile incrocio relazionale c'è anche quello in cui uno dei due partner è un genitore single, cioè un uomo, una donna e comunque un figlio. Non ci interessa come l'abbia avuto, a chi l'abbia avuto, perché ce l'ha in gestione lui da solo. Può essere qualcuno che gli è fuggita la moglie, o gli è morta la moglie, o la moglie è andata con un altro uomo. Può essere una donna che, secondo un'accezione antica, è una ragazza madre. Può essere una donna che ha avuto un figlio e poi non ha più il suo compagno vicino. Può essere un'infinità di ragioni per cui esseri umani ancora in età, diciamo, relazionalmente attiva, sessualmente vivace, felicemente aperta e disponibile al contatto umano, ha però questa sorta di fardello che deve comunque portarsi in qualche maniera dietro, fa parte comunque della sua vita. Qual è il problema dei genitori single? Che o si mettono assieme in grandi associazioni tutti i genitori single, fanno dei grandi raduni, dei grandi incontri, cercano di mettere assieme i loro già difficili incastri, o si pongono normalmente, perché uno non è che ce l'abbia scritto in fronte come genitore single, ma poi naturalmente ci sono dei momenti nelle fasi di approccio della relazione in cui viene fuori questo bambino. Quindi potrebbe essere un invito a cena a casa in cui c'è un bambino nella stanza accanto, potrebbe essere un invito a un weekend in cui uno deve comunque portarsi dietro un figlio, e sorgono comunque dei problemi di ordine sia logistico sia psicologico. Hanno diritto i genitori single comunque di avere una vita relazionale? Come si organizzano? Voi che mi ascoltate e siete in questa condizione, avete un problema, avreste un problema comunque allacciare una relazione, un'amicizia, un rapporto d'amore con un genitore single, con una persona che comunque dice sì, ci sono anch'io ma c'ho dietro anche questo figlio, per voi rappresenterebbe un problema? Nella vostra esperienza è accaduto qualcosa del genere? 800 24 0024. Da separato sento che sta chiedendo cosa succede dopo. Dopo è come cambiare macchina. Quando si cambia macchina si è contenti perché si trova qualcosa di più fresco, c'è i sedili in pelle, qualcosa di meglio, colore nuovo, è più giovane. Sono stata abbandonata 3 anni fa da un marito che è partito subito, immediatamente, si è messo con un'altra donna, ha abbandonato me e suo figlio. Io, donna esclusivamente di famiglia, che credeva nella famiglia, che si è trovata improvvisamente a dover vivere un quotidiano che non capiva, che non voleva, che non desiderava. Io sono una donna separata, ho una ragazzina di 17 anni, la sto crescendo da sola e ho cercato, vabbè, all'inizio magari in malo modo, ma dopo sempre di più, di far entrare il papà di mia figlia nel rapporto. 800 24 0024, c'è una fetta dell'umanità a cui normalmente poco si dà attenzione, anche perché da un punto di vista di attenzione pubblica, di afflato demagogico, hanno poco da dare in cambio, quindi non sono una categoria, anzi una categoria piuttosto sfilacciata, non sempre rappresentata. Qualcuno ha anche definito per loro una sigla, sono i Jengle, scritto proprio come si pronunciato, come si scrive. successive. Sono i genitori single, quindi potete chiamarli Jangle se volete, se vi suona meglio, forse, però è scritto così, è una cosa nuova, e chiamiamoli Jangle che forse suona meglio. Ecco, io sono un Jangle, sono un genitore single. Come vogliamo vederla questa situazione? Qualcuno si è organizzato, come ho già detto, e qualcuno trova la maniera più facile, più immediata, più diretta per creare aggregazione, che è quella di creare delle comunità online. Uno dei luoghi di aggregazione, o perlomeno di scambio di punti di vista, di opinione o di ricerca di attenzione dei Jangle italiani è www.genitorisingleitalia.it. Il responsabile e fondatore è Roberto Della Notte. Buongiorno Roberto Della Notte. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Lei è un Jangle innanzitutto? Sono un Jangle, esattamente. E le è venuto in mente di far qualcosa anche per i suoi compagni di avventura? Sì, esattamente. Quindi ho iniziato questa nuova avventura 3 anni fa e i problemi iniziali che si pongono un po' a tutti i Jangle è quello di trovarsi con persone che condividano un po' la stessa situazione, anche perché spesso e volentieri capita che uno dei due partner al momento della separazione perde le amicizie che rimangono più legate all'altro partner. Ma esiste anche questa sorta di ostracismo, di maledizione, di scomunica. Gli amici ti lasciano perché stanno con tua moglie o con tuo marito, seconda del caso. Esattamente. Quindi nasce proprio l'esigenza di incontrarsi con persone nuove, persone che conoscendo quella che è la situazione nutrono anche queste persone la stessa voglia di confrontarsi, di incontrarsi, di fare nuove amicizie e soprattutto rifarsi una vita. Senta, si è fatto un'idea di una possibile tipologia media del Jangle italiano? Già questo termine è assolutamente nuovo, io lo sento per la prima volta questa mattina. Si parla di tutte le possibili varietà degli accoppiamenti, delle unioni e delle modulazioni del genere umano, ma del Jangle non avevo mai sentito parlare. Come mai c'è così poca informazione sul Jangle? Ma è strano che ce ne sia poca, anche perché le statistiche dicono che il 70% delle coppie non va avanti, quindi ci sono il 70% di separazioni rispetto ai matrimoni o alle unioni di fatto. E quindi forse non se ne parla forse tanto proprio perché non dico che ci sia timidezza nel raccontare la propria esperienza, ma probabilmente se ne parla poco perché ognuno cerca di viverla un po' più fra le sue quattro mura. Ma il Jangle lo dice subito, lei Jangle esce e vuole conoscere persone, quando le conosce subito: guarda che io sono un Jangle, se vieni a casa mia trovi il biberon o trovi, diciamo, la PlayStation o trovi delle cose che comunque non fanno parte del normale scannatoio di un uomo che porta una persona a casa. Sì, esatto, sul sito difatti abbiamo affrontato anche questa tematica: quando dire al nuovo partner che si ha un figlio, sia per quanto riguarda gli uomini che per quanto riguarda le donne. Diciamo che chi racconta, chi dice, quindi chi dice subito di avere un figlio è quello che poi ha meno problemi, perché se una persona, una donna o un uomo con cui ti stai relazionando accetta subito la tua condizione, sei a posto, puoi andare avanti, ma se glielo tieni nascosto e la relazione va avanti e questa persona poi non lo accetta, perdi qualcosa di più che non un inizio di relazione, perché se sta andando avanti la relazione forse c'è qualcosa di più profondo. Quindi noi consigliamo sempre di dirlo subito, magari non al primo appuntamento, ma già dal secondo anticipare il fatto che si ha un figlio. Magari i figli possono anche aiutare nella relazione, perché se non sono dei bimbi minchia al massimo livello, forse anche un collante, possono essere simpatici, carini. Cioè, tanta gente va in giro con il cagnolino proprio per richiamare l'attenzione. In fondo uno, se ce l'ha il bambino, può anche usarlo in questa direzione. O dico qualcosa di estremamente cinico? No, sicuramente fungono da collante, anche perché molti incontri tra genitori single avvengono con i bambini, proprio per far socializzare i bambini, quindi diciamo che un'amicizia duratura può anche nascere grazie ai figli, che diventano amici, quindi si incomincia a frequentare perché bisogna appunto portare avanti questa amicizia dei bambini e poi magari può anche nascere. Abbiamo Laura, 800240024, la prima Jangle che ci chiama. Laura, buongiorno. Buongiorno. Lei è una bijangle. Bijangle, perché è una bijangle. Perché hanno due gemelle. Due gemelle, sì, due gemelle. Io sono già un po' avanti negli anni. Quante avanti? Quindi, quante avanti? Eh beh, 66 anni. Eh beh, sì, abbastanza. Le mie figlie hanno 40 anni e le mie storie le ho vissute al di fuori della casa. Quando hanno avuto 20 anni ho presentato un amico che attualmente è un amico. Beh, il rischio è quando una figlia di 20 anni che poi l'amico guardi più le figlie che la madre, c'è questo rischio. No, ma mi sono guardata bene di fare una cosa del genere. Sì, lei già ha una jangle, diciamo, di esperienza avanzata, nel senso, io immaginavo nella mia testa bambini piccoli, al massimo adolescenti. Lei ha due figlie da marito, portarsi uomini per casa è anche un rischio. No, infatti, soltanto dopo aver vagliato molto, ma in casa non è convivente. C'è l'innominabile antica legge della maniglia, che non è che vorrei che fosse poi sia la madre che la figlia, capisce? Bisogna stare molto... Qualcuno l'ha proposto la maniglia, chiaramente. Certo, perché è veloce. Ragazzi di 30 anni per casa, uno, con la mamma piacente, cinquantenne, uno dice... Certo, infatti è molto difficile, però io attualmente ho un compagno che è sempre un amico, quindi... Beh, comunque, avendo ormai figlie autonome, il problema è relativo, ormai sono due donne che hanno la loro vita. Il problema del jangle è quando c'è ancora figli da svezzare o da portare a scuola o da portare all'università, lì è un problema grosso. Davide, buongiorno. Buongiorno. Lei è un jangle? Sono un divorziato con una bimba piccola di 6 anni ed è stato duro... purtroppo tradito, è stato duro accettare capita alla mia chi non ama compagna. Non è mai tradito, è chiaro. No, la mia compagna, che è stata single per tanti anni, è stato un problema far accettare sia la bimba alla compagna e sia alla compagna alla bimba, perché il problema li ho avuti da tutti e due i lati. Ah, rompendo le scatole entrambe, è un bel incastro. La bimba che diceva, ma perché deve venire anche lei quando andiamo magari o al mare o fuori in gita, ai primi tempi. E lei che si ritrovava single, quindi a fare tutte le sue cose con calma, ad avere tutti i suoi spazi, i suoi luoghi. Poi di certo non c'era quella persona anche molto pignola, è molto precisa, quindi trovare l'ordine in una casa con una bimba piccola non è sempre possibile. Beh, diciamo che sei andato a cercare un bel incastro, una bimba cintura di castità è una donna schizzinosa che se non vuol vedere un cuscino fuori posto, avere una bambina per casa è chiaro che non è nemmeno la sua. Stiamo penando, però insomma c'è l'amore, quindi si spera di... Ah, quindi sta andando avanti, quindi il jangle comunque ha una via di speranza. Ci fermiamo un istante per il traffico, poi riprendiamo e ci faremo raccontare come funziona il sito dei jangle italiani. Melog, cronache meridiane. Questa mattina abbiamo scoperto una nuova categoria di persone che anelano conoscenza, che anelano amicizia, che anelano affetto, ma giustamente, come è logico, ma hanno un piccolo problema, hanno un figlio a carico e che devono gestirsi da solo. Sono i jangle italiani vivono in maniera abbastanza discreta e sommessa alla loro esistenza, però hanno comunque dei problemi. Voi come reagireste se un uomo, una donna al primo, secondo appuntamento che vi piace, col quale state per quagliare, poi vi dica sì, però scusa, cerchiamo di fare piano, nella stanza accanto dorme il bambino. E poi qualcuno può essere un problema, per altri no. Ho parlato finora con Roberto Lanotte, che è fondatore del sito www.genitorisingleitalia.it. Roberto, come funziona il sito? Vediamo come funziona in pratica. È come un normale sito di incontri, di ricerca di anime gemelle, qualcosa del genere? Dunque, il funzionamento del sito è molto semplice. Non abbiamo voluto mettere l'obbligo di registrazione proprio perché molte persone preferiscono rimanere anonime e non lasciare i propri dati sul web. Quindi si può intervenire, commentare le discussioni, proporre nuovi argomenti semplicemente postando un commento all'articolo della propria città. Il sito è suddiviso per città in modo tale che i genitori delle varie province possono scambiarsi opinioni, organizzarsi in modo autonomo o proporre direttamente all'amministratore del sito un incontro, una proposta di incontro che quindi viene poi promossa a tutto il portale. Chiaramente ci sono persone che chattano tra virgolette in privato, altre che invece propongono degli incontri di gruppo solo tra genitori magari la sera o qualche weekend con i bambini. No, è divertente, sto scorrendo il vostro sito, c'è come nei siti di incontri, i luoghi in cui si fa un raduno, si può vedere le offerte, una specie di trip advisor delle zone in cui possono incontrarsi i Jengol. C'è una stanza bellissima di un albergo dove si può andare a fare magari una settimana bianca, un hotel rifugio, c'è il letto matrimoniale, c'è tutto quello che sembra un luogo romantico, ma lateralmente c'è anche il lettino dove poi si mette anche il bambino, quindi bisogna tenere anche conto che comunque uno entra in gioco anche con questa realtà. Grazie Roberto Lanotte, 800240024, stiamo parlando della realtà dei Jengol italiani e abbiamo capito che si incontrano facilmente e piacevolmente anche attraverso dei sistemi di collegamento informatico. Arturo, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Lei è un Jengol o ha frequentato Jengol? No, io sono attualmente con una ex Jengol, nel senso che... Perché il bambino l'hanno soppresso, come mai ex? No, nel senso che no, anzi. Io 22 anni fa ho conosciuto una donna, abbiamo avuto subito un bel rapporto e lei dopo direi due o tre incontri mi ha detto che aveva una bimba di 8 anni. Io la cosa l'ho presa in maniera estremamente felice perché sono amante dei bambini e tutto, e niente, la cosa ha funzionato benissimo e adesso siamo ancora insieme, oltre a questa che ormai ha 32 anni, abbiamo avuto poi anche un altro maschio e una femmina, quindi è stata una cosa estremamente, direi anche molto divertente, perché la bimba è stata lei la prima a dirmi, dopo che ci vedeva spesso a casa sua e tutto, a dirmi: ma perché non dormi qui? Nel senso che... Così la mamma è contenta, è quello. Sì. Sono ragazzini di generazione avanzata. Certo. Sì, no. La faceva giocare, lei poi io ero diciamo il suo confidente quando cominciava a avere le prime storie. Si consiglia che saranno anche dei bambini che avranno comunque la necessità di un altro genitore oltre quello che gli è rimasto accanto. Esatto. Leggo qualche commento, qualcuno dice: io ci andrei lo stesso con il Jengol, sei una persona che lavora e economicamente autonoma e sufficiente. Ha ragione, questa ragione, poi non può accollarsi anche dei pesi ulteriori. Qualcun altro mi dice: oggi fa più schifo del solito. Va bene, mi fa piacere questo, evidentemente ha una ritrosia particolare per i figli degli altri. Poi qualcuno dice: meglio un figlio che un cane, gli animali sono molto peggiori dei figli, loro crescono e poi si fanno i fatti suoi. Luca, buongiorno. Buongiorno. Un'altra esperienza nel mondo dei Jengol? Sì, io non sono un Jengol, ma ho sposato una Jengol, nel senso che ho cominciato a frequentare una ragazza che aveva all'epoca una figlia di 4 anni, dopodiché l'ho sposata e a oggi la bambina ha 13 anni e ha altri 3 fratelli, la più piccola ha 8 mesi, il più grande ne ha 4. Per cui siamo una famiglia completa, insomma normale. Mi verrebbe da dire che mi sento una famiglia molto più normale di famiglie classiche che magari... Vabbè, esatto, è meno normale, la famiglia, se gente che sta assieme sta bene, poi sono fatti loro. Allora, ho al telefono Giuditta Pasotto. Giuditta Pasotto, buongiorno. Buongiorno. Fondatrice di www.jengol.it, ma se l'ha inventato lei il termine? Sì. Ah, lei è proprio l'inventrice del termine Jengol. Perfetto, le diamo titolarità e onore di questo termine che io ho appreso questa mattina. Quindi lei ha inventato un termine unico al mondo, i Jengol. Perfetto. Lei rappresenta comunque allora la categoria che si identifica sotto il nome di Jengol. Vedo il suo sito aperto, siamo sempre di più. Vuoi vedere quanti Jengol iscritti ci sono in Italia? Quanti ce ne sono? Ma ora siamo sotto i 6.000 di poco, però ho una media di iscritti che va sui 150 giornalieri, quindi insomma siamo in fortissima crescita, direi. Mi faccia capire, allora il suo scopo è mettere in contatto tra loro i Jengol per leccarsi reciprocamente le ferite o mette sul mercato materiale umano, cioè perfetti Jengol capaci, pronti a amare, a accompagnare, a dividere amicizia e allegria, e c'è anche il figlio dietro? No, allora, assolutamente Jengol non è un sito di incontri, questo ci tengo a dirlo proprio a gran voce, nel senso che ovviamente in un gruppo di persone eterosessuali ci può scappare ovviamente la storia o quello che è, però lo scopo del sito è creare occasione di incontri e fare attività con i figli, quindi genitori e figli che condividono delle attività. Diciamo, è un luogo, ecco, per avere una sorta di sollievo quotidiano o settimanale con chi ha i figli, cioè belle attività sportive, pizze, giochi, amicizie. Bravissimo. Torneo di beach volley, interessante. Quindi voi siete più orientati al benessere dei bambini, non a quello delle mamme e dei papà? No, ovviamente se i bambini stanno bene e i genitori sono rilassati c'è un connubio di situazioni che ovviamente portano a star bene entrambi. No, perché è vero che avete organizzato il raduno dei Jengol, non è che vi radunate per fare girotondo con i bambini, alla fine li metterete a letto a una certa ora. Sì, vabbè, certo, quello ovviamente, però diciamo lo scopo per esempio anche in questo raduno è visitare Venezia con i bambini, quindi rendendo una gita a misura di bambino, quindi ci divideremo anche in base un po' all'età dei bambini, che ai bambini di 2-3 anni farà cose diverse con il suo gruppo rispetto a quelli che magari hanno i figli adolescenti o teenager, insomma. Quindi diciamo è secondario il benessere relazionale dei genitori rispetto all'orientamento del vostro singolo, il vostro sito. Non è secondario, perché in realtà per esempio quando si fanno le cene, i bambini giocano tranquilli magari in una parte della stanza dove si fa la cena, i genitori hanno modo di chiacchierare e dialogare, cosa che invece in genere magari se esci da sola con un'altra amica e tuo figlio, il bambino sta tutto il tempo a cercare la tua attenzione. Vedo che avete fatto anche un viaggio in Norvegia, quindi vi allontanate, sì, ben oltre i confini. Ma allora, in realtà Jengol è molto duttile, perché per esempio in quel caso della Norvegia è una Jengol che sta in Norvegia, ex fiorentina e ora abita in Norvegia, che ha invitato chiunque volesse andare a casa sua, e quindi ora un gruppo di Jengol si sta muovendo per andare a trovarlo, lo stesso è successo in Inghilterra e così via, ma poi dietro c'è anche tanto altro, stiamo cercando di avere delle grandi convenzioni per quello che riguarda riuscire ad essere appunto riconosciuti come categoria, quindi avere degli scontistiche. Sì, perché mirate. Siete, diciamo, io poi cerco di essere informato su quello che accade nel mondo, anche nel mio paese. Oggi con sorpresa e con piacere do la luce mediatica a questa categoria. Sono molto contento che i Jengol si siano in qualche maniera organizzati. Poi non sono, mi sembra, una categoria che si piange addosso, fanno le vittime, sentono emarginati. No, vi state già organizzando. Bisogno. Ma accettate anche, diciamo, contaminazioni con persone non Jengol nei vostri gruppi? Allora, non è possibile iscriversi ovviamente al sito né usufruire della parte di scontistica se non si è Jengol, perché sennò ovviamente può venire alle vostre feste se uno magari se uno volesse dice guarda vengo alla festa mi porto un amico, è ovvio che puoi farlo, non siamo una setta o un ghetto, quindi assolutamente ben venga chiunque si voglia aggregare alle feste. Grazie Giuditta, in bocca al lupo a tutti i Jengol d'Italia, chissà che presto non ci troveremo insieme a tante altre persone che sconosciuti non hanno ancora dato il loro coming out e hanno rivelato al mondo di essere dei Jengol.